Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non, cari gastronauti. Ebbene, oggi vi porterò a fare un bellissimo giro tra le isole minori italiane. Ovviamente non tutte, ma soprattutto le più importanti. Ebbene, le isole minori sono una realtà stupefacente di questo paese dal punto di vista paesaggistico, turistico, ma hanno anche delle sorprese dal punto di vista gastronomico e vinicolo. Ebbene, mentre stavo preparando questa trasmissione, mi è arrivato un bellissimo libro di Andrea Gabrielli, Il vino è il mare, guida alla vite difficile delle piccole isole. Bene, allora ho pensato di farmi accompagnare per quanto riguarda il vino, appunto, da Andrea, che ha visitato, ha assaggiato i vini di queste isole minori. Quindi dal punto di vista vinicolo avrò un compagno di viaggio importante nelle isole, ovviamente, dove si produce vino. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora Andrea, inizieremo questo viaggio dall'isola d'Elba. Allora raccontami un po' dal punto di vista vinicolo questa isola. Ma intanto io vi sto parlando proprio dall'isola d'Elba. Quindi allora sicuramente sarai ferratissimo. Sì, direi che c'è una grande novità, e questo non è che riguarda solo l'Elba. Non ci sono più notizie di abbandoni, ma ci sono notizie di nuovi investimenti anche importanti, tant'è vero che all'isola d'Elba il numero degli ettari rispetto a 10 anni fa, quelli perlomeno iscritti all'albo delle DOC, è significativamente cresciuto, così come sono cresciute il numero delle aziende attive sul territorio. Quella dell'Elba è una viticoltura antichissima, attualmente ci sono poco più di 300 ettari coltivati a vite in tutte le isole, ma anche ieri nel pomeriggio, facendo una passeggiata in montagna, ho trovato un nuovo impianto di vigneto molto interessante. Qui un po' la patria è l'Aleatico, quest'uva rossa da cui si ottiene un vino passito che recentemente è diventato anche a denominazione di origine controllata e garantita, ma ci sono dei formidabili bianchi, l'Anzonica per esempio, ma anche il Vermentino, cioè è una viticoltura complessa, difficile, spesso si svolge su pendenze molto importanti. Io vi sto parlando da un'azienda che si chiama Valle di Lazzaro, che è un'azienda che è stata coltivata e lavorata sino agli anni 60 e poi all'inizio degli anni 2000, nel 2004-2005, è stata nuovamente riportata alla produzione. Andrea, rimani con noi perché ora, diciamo, abbiniamo ai vini di cui ci hai parlato la gastronomia e andiamo al ristorante Il Chiasso, andiamo da Luciano Casini. Buongiorno Casini. Buongiorno a lei, mi dica. La cucina elbana, sì, ha delle proprie peculiarità, ci vuol parlare di qualche piatto? Beh, naturalmente la cucina elbana è una cucina abbastanza povera, diciamo. Usiamo naturalmente molto pesce azzurro, per esempio, dallo sgombro, la sarda, la reccia, il tonno non così tanto, e il polpo naturalmente, il polpo fa parte proprio della cultura della cucina elbana, cioè soprattutto di pesce, insomma, molto accurata, molto tranquilla, con direi buona, insomma. Ecco, c'è un piatto veramente particolare che caratterizza la cucina elbana, uno secco? Ma direi proprio, ecco, per esempio le acciughe ripiene è un piatto tipico elbano, insomma, un piatto povero che è stupendo, il polpo con le patate è anche un piatto tipico elbano. Si fa anche un cacciucco, però il cacciucco diciamo che è più livornese che il nostro, però facciamo almeno un buon stoccafisso, anche un piatto tipico elbano con le patate, sempre abbinato naturalmente a delle verdure, usiamo molte verdure nella cucina elbana proprio perché ce l'abbiamo, insomma, ecco, questo è il fatto. Bene, grazie a Luciano Casini, torniamo a Andrea Gabrielli, grazie, a presto, torniamo a Andrea Gabrielli. Io perché... volevo suggerire un classico abbinamento, la schiaccia briaca con l'aleatico. Bene, schiaccia briaca, immagino che sarà una schiacciata sicuramente nel vino, no? Ed una volta si usava il mosto d'uva, adesso per farlo tutto l'anno si usa la Kermes, ma è una pasta, un dolce molto tipico qua della zona, che viene fatto con pinoli, molto ricco, ed ha proprio l'abbinamento ideale con l'aleatico. Bene, io ti vado avanti e vado nella prossima isola, e vado all'isola del Giglio in provincia di Grosseto, e volevo chiederti di darci qualche così notizia su questa isola dal punto di vista vinicolo. Ma dal punto di vista vinicolo anche questa è una grande novità, perché nell'ultimo decennio una viticoltura che era ridotta veramente a un livello residuale ha nuovamente preso forza, e il simbolo forse, e il simbolo sicuramente di questa rinascita è Francesco Carfagna, che è un ristoratore dell'isola del Giglio, che si è andato a impelagare in un'impresa quasi impossibile, ma ce l'ha fatta. Ecco, cioè, tu hai già introdotto il personaggio che poi chiameremo, quindi appunto Francesco Carfagna, di cui così parleremo appunto con lui e ci faremo raccontare. Ecco, continua comunque sul discorso dell'isola del Giglio. L'isola del Giglio nel vitigno anzonico, cioè lo stessa anzonica che viene coltivata all'isola d'Elba, che però al Giglio viene denominato così, al maschile anzonico, ha senza dubbio il punto di riferimento importante. Anche qui si alleva la vite in condizioni molto molto difficili, molto complesse, su terrazzamenti. Naturalmente poi nelle isole si soffre anche molto la siccità, si soffre per il vento, e in più c'è un nemico implacabile di tutti quanti i vignaioli delle isole, la burocrazia, che è veramente asfissiante e opprimente. Spesso i regolamenti sono scritti da persone che con l'agricoltura non hanno niente a che vedere, o che hanno una visione dell'agricoltura ottocentesca, e quindi provocando infinite difficoltà. Cioè il gioco in ballo nelle isole è rendere le condizioni di coltivazioni possibili, oppure lasciare abbandonati i terreni significa possibilità in più di incendi, scarsa manutenzione del territorio, scarsa manutenzione dei terrazzamenti o dei muretti a secco, perché il vignaiolo nelle piccole isole non è semplicemente una persona che produce vino, ma è un reale attore del mantenimento del territorio, certo, e della manutenzione del territorio. È un difensore del territorio. Bene, diciamo che dopo essere stati appunto nell'isola d'Elba, isola del Giglio, ora poi continueremo, andremo anche a Salina, poi andremo nelle Tremiti, andremo a Pantelleria, andremo alle Lipari, andremo a Ponza, insomma faremo un giro lunghissimo. Continuiamo questo viaggio nelle isole minori. Certo che ci vorrebbe una barca velocissima per poter così correre da un'isola all'altra. Ora andiamo a Salina, nelle Eolie, andiamo a questa splendida isola appunto di questo arcipelago molto battuto d'estate, sicuramente uno degli arcipelaghi che ha maggior successo turistico e ha avuto negli ultimi anni. Buongiorno a Luca Caruso dell'hotel ristorante Signum. Buongiorno, signor Paolini, buongiorno a tutti. Siamo nella bellissima località Malfa, dove spesso sono andato anche a fare il bagno sotto. Vabbè, lasciamo perdere ricordi molto, molto personali, perché Salina immediatamente ricorda i capperi, ricorda tantissime cose. Luca, voi avete un menù molto legato, diciamo, alla tradizione e ai prodotti di Salina. Ci vuoi raccontare qualche piatto? Sì, noi utilizziamo diversi prodotti dell'isola di Salina. E comunque sì, anche dagli ortaggi fatti sempre in loco, il pesce fresco, i capperi, pensando ai capperi e alla malvasia, probabilmente sono i due prodotti, no, che rimandano all'isola e che si utilizzano in diverse pietanze, diverse preparazioni. La malvasia è il vino passito, i capperi appunto questo arbusto, questo frutto. Senta Luca, ha parlato di pesce fresco, e non è facile d'estate trovarlo però. Ma devo dire che c'è ancora una buona pesca, anche piccoli pescatori legati ad alcune cooperative, che se uno cerca appunto riesce ancora a trovare del pescato di qualità e prezzo in loco. Senta, il ristorante del suo albergo c'è un piatto in particolare, diciamo, un piatto così di successo, un piatto che piace più degli altri? Ma sì, ci sono alcuni piatti, diciamo, piatti bandiera in qualche modo. Tra i primi un bucatino di pasta fresca con un ragù bianco di mare, dove utilizziamo appunto diversi pescati secondo la disponibilità del momento, del mare. E poi ci sono diverse erbe aromatiche come il finocchietto, la salvia, un piatto di mare, però c'è anche molta terra in qualche modo, molta isola. Poi partecipano i capperi, delle olive, il pan grattato. Un piatto deciso sicuramente che può essere apprezzato in questo modo. Poi noi negli ultimi anni stiamo utilizzando molto anche lo scorfano a zuppa, piuttosto che anche cotto sul lato della pelle, per loro sua pelle rossa molto bella anche a vederla, croccante, che serviamo con una purea di zucchine e menta fresca. Nelle serate molto calde sicuramente i crudi di mare, le crudità in qualche modo interpretate in maniera nostri, con i prodotti dell'isola, ancora partecipa il cappero, il pistacchio, la mandorla, gli ortaggi locali con i diversi pesci, è sempre piacevole, ecco, bene. Al palato. Mi fa venire fame Luca, mi fa venire fame, bene, la ringrazio Luca Caruso, grazie a lei, ciao. Hotel Ristorante Signum in località Malfa. Bene, ora ritorniamo dal nostro amico Gabrielli, ci facciamo un po' descrivere appunto Salina dal punto di vista venicolo. Andrea, cosa ci racconti su Salina? Beh, intanto che è l'isola più verde delle Eolie, ci sono delle particolari condizioni per cui da sempre c'è stata una viticoltura molto importante, però la viticoltura è stata anche uno dei motivi forti dell'immigrazione. Dopo l'attacco filosserico nei primi anni dello scorso secolo, sono andati via in 10.000 emigrati in giro per il mondo, proprio perché questo terribile insetto aveva terribilmente colpito i vigneti dell'isola. Poi la ripresa negli anni 70 e 80 per merito di un personaggio straordinario che si chiamava Carlo Auner, che ha reinterpretato la Malvasia, che ormai era ridotta a ben poca cosa, e lentamente ha dato non solo nuova immagine a questo vino, ma lo ha fatto diventare un vino di culto. Grazie a lui si è nuovamente sviluppata la viticoltura nell'isola, che oggi non è più solo a Salina, ma c'è anche a Lipari, c'è all'isola di Vulcano, quindi questo fenomeno si è esteso. D'altra parte, e questo vale per tutte le piccole isole, ed è anche un principio molto giusto, i turisti che si recano in queste isole vogliono mangiare e bere dei prodotti locali. Certo. Ma volevo ricordare Andrea, che appunto hai parlato di emigrazione, che a Salina c'è un museo dell'immigrazione molto interessante, e tra l'altro, vabbè, non voglio farmi molta pubblicità perché tra l'altro è un libro che non si trova più, c'è anche un mio libro scritto con due antropologi su appunto la cucina degli emigranti, e quindi lì c'è stato anche un convegno che si è discusso di questo. La seconda cosa, volevo ricordare che proprio grazie a Carlo Auner ho scoperto quest'isola un po' di anni fa, nel 1986 ricordo, e andai ospite suo nell'isola, e lì ho scoperto questa meravigliosa isola. Rimani con noi perché ora andiamo a Pantelleria, poi ci parlerei anche di Pantelleria. Andiamo da Gianni Busetta della Nicchia, appunto di Pantelleria, del ristorante La Nicchia. Buongiorno Busetta. Buongiorno Davide, buongiorno. Allora, Pantelleria ci sono, diciamo, nota per i capperi, poi il vino lo vedremo a parte, nota per i capperi, ma io mi chiedo, c'è un piatto dove diciamo si rispecchia questa isola dal punto di vista gastronomico? Sì, diciamo che l'insalata pantesca è sicuramente il piatto più rappresentativo, insomma, diciamo, per quanto riguarda i capperi. Appunto un'insalata che veniva fatta dai contadini quando andavano sul terreno, e portata lì per mangiarla, è fatta con delle patate che vengono lessate, poi del pomodoro pantesco chiaramente, della cipolla rossa, un po' come quella di Tropea, i capperi che venivano prima dissalati e poi messi, e poi l'origano, e delle olive nere che venivano essiccate a forno. E poi una, diciamo, un'altra peculiarità era il pesce asciutto, che ora non si fa più purtroppo, che era del pesce secco con le uova, che veniva messo anche in questa insalata. Bene, e chiaramente dell'olio extravergine. Senta, c'è molto pescato ancora a Pantelleria? Beh sì, diciamo che si pesca ancora tanto, insomma cerni, ricciole, qualche dentice, sì, c'è anche tanto pescato ancora, sì, c'è del buon pesce fresco. E poi ci sono i gamberi, insomma, che vengono pescati qua nel canale di Sicilia, che vengono portati qua dai pescherecci di Mazara, che sono anche molto buoni. Senta, una curiosità, io tempo fa ho mangiato un dolce, un dessert a base di cappero da Massimo Bottura. Mi chiedo, c'è nella tradizione pantesca un dolce che si rifà al cappero? Purtroppo devo dire di no, come tradizione purtroppo no, capperi no. Ci sono dei dolci con la ricotta di mucca, di latte vaccino, insomma qua di Pantelleria, e poi dei dolci fatti con l'uva passa, quello sì, con l'uva passa, insomma, con cui si fa poi il famoso passito, ecco, quello sì, quello ci sono. Quindi pane si trova ancora un pane, diciamo, decente, perché sì, ormai... Sì, ci sono ancora dei forni a legna e fanno anche un buon pane, devo dire, sì. Ho capito. Bene, grazie Gianni Busetta del ristorante La Nicchia. Ora torniamo al nostro Gabrielli che ci descriverà i vini di Pantelleria. Volevo solo ricordare, l'ho già ricordato più volte da questi microfoni, ma lo ricordo ancora una volta, che Pantelleria per me significa prima Miceli, poi Marco De Bartoli, che sono stati due straordinari personaggi del mondo del vino che ci hanno lasciato nel tempo, e Marco De Bartoli molto recentemente, però sicuramente sono stati i due pilastri, secondo me, non solo della viticoltura pantesca o siciliana, ma anche della viticoltura italiana. A te, Andrea. Ma intanto un saluto a Gianni, se è ancora in linea. Ho passato sì, tante belle serate da lui. Ma quando si parla di Pantelleria si parla essenzialmente di uva Zibibbo, quindi moscato di Alessandria, che è un'uva straordinaria, veramente straordinaria. Voi pensate, tanto per darvi un ordine di idee, che Pantelleria sono 83 chilometri quadrati e la vendemmia può iniziare da metà di agosto e può finire oltre la fine di ottobre. Ecco, quindi pensate voi quante diversità di microclimi e quante diversità anche di biotipi di uva, che quindi sono a tempi e che hanno tempi anche di maturazioni diverse, e quindi che qualità di vino possono dare, che però non è solo il tradizionale passito, ma negli ultimi anni sta sempre più prendendo piede la vinificazione dello Zibibbo secco, quindi senza appassire le uve. Ecco, peccato che la viticoltura pantesca, nonostante a tutt'oggi sia la viticoltura insulare più importante, sta soffrendo enormi difficoltà. Attualmente ci sono circa 600 ettari coltivati e la produzione purtroppo raggiunge circa i 25-26 mila quintali l'anno, e nonostante l'uva sia remunerata molto di più che in Sicilia, gli abbandoni purtroppo si susseguono, però ci sono ancora circa una ventina di aziende, tra cui alcune importantissime, ne cito una per tutti, la tenuta di Donna Fugata, che attualmente è quella che ha maggiore superficie vitata tra affitto e proprietà dell'isola, più di 60 ettari, che portano in giro per il mondo e non solo per l'Italia la bandiera del vino di Pantelleria, che peraltro ha una natura assolutamente straordinaria, dove ci sono decine di migliaia di chilometri di muretti e di terrazzamenti che avrebbero un estremo bisogno di manutenzione. Grazie a Andrea Gabrielli e a Gianni Busetta, grazie a tutti e due. Noi continuiamo questo viaggio e andremo anche in isole dove purtroppo non si produce vino. Bene, grazie a tutti e due. Ora andiamo da Francesco Carfagna all'Isola del Giglio, che è un produttore di vino ed è stato anche un ristoratore. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide, salute. Mi parli dei tuoi vini, dei vini di, perché tu sei l'unico produttore al Giglio, quindi parlami dei tuoi vini. Beh, noi siamo stati i primi, ecco, ora non siamo più gli unici perché ci hanno seguito, per fortuna, che più vigna lavorata c'è, come diceva Andrea, dell'abbandono, che è la, insomma, la cosa più triste, ecco, in questi luoghi, l'abbandono, che poi significa abbandono dei lavori, abbandono della popolazione che abbandona il luogo, quindi spopolamento, solita roba, che sono insomma problemi comuni a tutte le isole e anche a, alle valli dell'Appennino, se vogliamo dire, o delle Alpi. Senti, quali sono, ecco, i vitigni predominanti al Giglio? Vitigni predominanti qui ce n'è uno solo, che è l'Ansonaco, qui è chiamato Ansonaco, e l'uva Ansonaca, il vino Ansonaco, che ha questa radice fonetica come l'Ansolia, Insolia, Insolia siciliana, che è lo stesso vitigno che qui è radicato insomma da tempo immemorabile ed è stato fonte di sostentamento per le famiglie isolane per, insomma, non dico millenni, ma almeno decine di secoli, che praticamente sono millenni, perché ha la buccia dura, è molto resistente agli inconvenienti del trasporto, è un'uva assai buona sia da tavola e sia da essere vinificata, e quindi è stata una risorsa principale, evidentemente è quella che si è adattata meglio a questo granito, a questi minerali fortissimi, a questa salsedine che arriva insomma nelle vigne, perché con un gioco di parole piuttosto scioccherello, il mare sale e va dentro la vigna, certo. Ecco così. Senti, e quindi dimmi. C'è questo vitigno principale, poi ci sono anche però tantissime altre uve, nel senso una grande quantità di varietà di vitigni diversi, che però sono in piccola quantità come proporzione, no? Mettiamo in caso 1 a 10, tutto è Ansonaco, 9 è Ansonaco, mettiamo, e 1 è questo grosso miscuglio di uve miste, che vengono chiamate uve tonde, malvasie, moscati, trebbiani, biancone, empolo, grecanico, procanico, eccetera, bianchi e neri, tant'è vero che c'è un vino rosso documentato fino dal 500 nella storia dei vini di Andrea Bacci, che è una sorta di resoconto europeo di tutti i vini, ed il Giglio è nominato, perciò pensate un po' in quei tempi lì che importanza doveva avere la viticoltura, come diceva Andrea prima, è un po' insomma decaduta tutta l'importanza di questo per via della... Eccoci di nuovo, appunto, gironzolare per le isole minori, queste splendide isole italiane dove stiamo scoprendo una grande gastronomia e anche una grande viticoltura. Bene, stavamo parlando di vino con Francesco Carfagna dell'azienda Altura dell'isola del Giglio, ma Carfagna, oltre a essere un ottimo produttore di vino, è stato anche un ristoratore, credo che lo sia ancora, questo non lo so, ma può darsi, vero Francesco? Sì, è vero. Però è passato la mano al mio figlio. Bene. Allora, mi dai un piatto dell'isola del Giglio? Cioè, l'isola del Giglio sicuramente è pescosa, ma c'ha un piatto caratterizzante? Beh, io sono appassionatissimo di un piatto che mi è stato insegnato dal pescatore della Paranza, che è un piatto che veniva usato appunto a bordo dei pescherecci, e curiosamente ascoltavo prima quel signore di Pantelleria. Ha degli ingredienti assai simili, perché patate, cipolle, pomodoro, non ci sono i capperi, perché qua capperi ci sono, ma non sono insomma una coltura privilegiata come Pantelleria, cioè ognuno se ha la sua pianta se li fa per sé, punto e basta. Ed è la zuppa di acciughe dove praticamente viene soffritta la cipolla, sempre questa cipolla rossa bella, no? Con il pomodoro fresco, le patate che vengono aggiunte, viene fatto tirare questo sughetto e poi le acciughe fresche vengono messe nella pentola, poi sul pane o insomma un po' secco o abbrustolito o come sia viene messa questa zuppa, che è un piatto unico, assai saporito, e somiglia insomma, se si vuole pensare, a tante ricette del baccalà, per esempio, no? Dove il baccalà è sostituito dalle acciughe ed è un piatto semplice, saporitissimo, profumato, delizioso, bla bla bla bla bla. Bene, grazie Francesco Carfagna, grazie tante Francesco. Grazie a te. A presto. Tanti saluti a tutti gli ascoltatori. A presto. Buonasera. E dall'isola del Giglio andremo, ora stiamo andando verso Venezia e andiamo all'isola di Venissa. In particolare prima parleremo di vino con Gianluca Bisol. Buongiorno Gianluca. Ciao Davide, buongiorno. Già notissimo per il Prosecco, ma sicuramente ora famosissimo con questa tenuta Venissa, perché è stata così decantata ormai in tutto il mondo. Poi andremo anche nelle cucine del Resort Venissa con Paola Budele, scopriremo alcuni piatti. Gianluca, mi vuoi parlare appunto del vino, del vigneto della tenuta Venissa? Ma questo è stato veramente un colpo di fulmine che è successo 8 anni fa, quando uscendo dalla Basilica di Torcello, come sai Torcello, Mazzorbo e Burano sono le 3 isole che hanno dato le origini a Venezia già 150 anni prima dell'attuale Rialto, era la prima parte di Venezia popolata e quindi possiamo definirle la Venezia nativa. Ecco, uscendo dalla Basilica di Torcello 8 anni fa vidi un vigneto in mezzo a un giardino popolato di statue, quindi una cosa veramente affascinante. E da lì partì la mia ricerca storica, da prima che mi rivelò una cosa che non conoscevo a quel tempo, ossia che Venezia era ricca di vigneti, ma che addirittura sotto l'attuale Harris Bar c'era un vigneto nel 1200, pensa un po'. E quindi questa cosa mi accese una passione, una sfida di poter riportare in vita una tradizione. E questa ricerca mi fece conoscere addirittura l'esistenza di un vitigno autoctono veneziano, che era nel frattempo quasi totalmente scomparso, la Dorona. E così questa scoperta di questo vitigno autoctono, poi favorita anche dal fatto che questo vitigno ha una foglia unica come forma, davvero originalissima, una vita della foglia molto stretta, mi ha permesso di riconoscere insieme ai miei agronomi nelle isole di Torcello, Burano e Mazzorbo, soprattutto Mazzorbo e Mazzorbetto, alcune piante di questo vitigno Dorona e poterle sperimentare insieme a mio fratello Desiderio Bisol, che è noto per salvare i profumi più delicati dei vini bianchi, e insieme a Roberto Cipresso, che è sicuramente un grande winemaker di vini rossi da Montalcino. E quindi abbiamo messo insieme le energie di un bianchista come mio fratello con quelle di un rossista come Roberto Cipresso. La mission è stata quella, ormai diciamo vicini al risultato, di riprodurre questo grande vino bianco, la Dorona appunto del 1400, che stava scomparendo, e di farne un vino bianco con le spalle di un rosso. Infatti la resa terrestre è, pensa, bassissima, volutamente portata tra le più basse al mondo, 25 ettolitri per ettaro. Bene, rimani con noi, perché ora ho parlato di tenuta Venissa, ma non ho detto che siamo nell'isola di Mazzorbo, quindi Venezia ma Mazzorbo. Bene, rimani con noi perché ora entriamo nelle cucine del Resort Venissa. Buongiorno a Paola Budel. Buongiorno a voi. Paola, in questa isola hai trovato dei prodotti diciamo da poter utilizzare, oppure devi andare a far spesa in altre isole? L'isola, noi abbiamo degli orti appunto all'interno della nostra stessa tenuta, e poi le isole circostanti come Sant'Erasmo veramente ci propongono prodotti interessanti. Si parte dalla primavera col carciofo appunto di Sant'Erasmo, e poi man mano i prodotti appunto di stagione, dai fagiolini, i piselli. Ora abbiamo dei meravigliosi cuor di bue del Cavallino, che appunto vengono riprodotti in tutte le isole, la melanzana lunga veneziana, tutte le erbe spontanee, perché abbiamo io faccio uso veramente di queste erbe che crescono appunto spontanee e dalle quali veramente la maggior parte crescono anche dentro una nostra tenuta, come il falso spinaccino, la salicornia, la portulaca, la sueda, la senape di laguna, per cui veramente insomma sono veramente prodotti che rientrano nel quotidiano con nei piatti che propongo. Senti, volevo chiederti, tu una volta arrivata lì sei stata ispirata a creare un nuovo piatto? Eh beh sì, perché io credo che entrare nel territorio, sentirne i profumi, capire quali sono i prodotti, è chiaro che insomma danno, insomma si ricevono appunto energie per creare piatti utilizzando questi prodotti, quindi certo sì. Ci dici quale piatto così hai creato appunto ispirata da questa isola, ma magari che hai dedicato a questa isola? Oddio, non c'è proprio un piatto in particolare, però se mi viene in mente il piatto che sto facendo adesso, che è appunto utilizzando lo sgombro di laguna, per cui uno sgombro veramente che pesa sui 400 grammi, di una carne sodissima, sfilettato, cotto quindi sott'olio, candito per qualche minuto, e è abbinato appunto a della salicornia un po' sbianchita e un po' fatta resa in polvere, quindi essiccata, fatto con una melanzana veneziana e una pasta di caffè. Usciamo ecco dalla zona, dalla regione, però ecco, questa pasta di caffè è veramente molto molto squisito. Senti, volevo chiederti, sgombro hai detto di laguna, è molto diverso dallo sgombro di mare? Ma credo che come tutti i pesci, anche i piccoli rombi che riceviamo, la nostra volpina che ha una carne bianchissima e sembra veramente quasi più un branzino, veramente per infatti viene anche proprio scambiato e ci dicono ma come, questa è una volpina, perché veramente viene proprio scambiato per un branzino. Hanno profumi, hanno una bella texture, per cui devo dire che sono veramente dei buoni prodotti. Lo sgombro credo che insomma non posso non utilizzarlo, visto che è di ottima qualità e arriva certo. da qui, quindi bene, poi è uno di quei pesci omega 3 importanti in questo certo. momento per i salutisti. Bene, grazie a Paola Budde. Un'ultima domanda a Gianluca. Gianluca, questo vino prodotto appunto nella tenuta, questo vino bianco hai detto con le spalle forti, c'è un piatto appunto di Paola con cui si abbina perfettamente? Beh, guarda, si abbina benissimo con qualsiasi piatto perché proprio ha le spalle forti di un rosso pur essendo un bianco, ma se devo pensare a un piatto di Paola che mi piace moltissimo è il risotto con la salicornia e il go, che è un pesce tipico della laguna. Che è difficile da pulire, molto difficile da pulire. Molto difficile da pulire, ma sicuramente gustosissimo. Certo. È tanto brutto a vedersi quanto buono a mangiarsi, certo. Che è veramente incredibile. Ma devo dire che questa parte della laguna è veramente affascinante proprio per questa sua ricchezza dell'agricoltura. Questi orti tenuti dagli anziani, tra l'altro gli orti della nostra tenuta sono tenuti dagli anziani di Burano, che ognuno ha una porzione che noi mettiamo a loro disposizione, e i frutteti e la piccola peschiera sono un microcosmo che hanno reso Venissa anche un parco agricolo ambientale, importante. Quindi un'esperienza da fare, quindi unire il turismo delle isole così estreme come Burano, Mazzorbo e Torcello della Venezia nativa all'agricoltura è veramente un filone entusiasmante. Bene, grazie a Gianluca Bisole e a Paola Budel. Ora lasciamo Mazzorbo in provincia Venezia, è un'isola del Trittico veneziano, e ora andiamo alle isole Tremiti, dove anche lì ci sono una serie di isole. Andiamo a San Domino, in particolare da Marco Napolitano, il Gabbiano Hotel Ristorante. Buongiorno Marco. Salve, buongiorno a tutti. Bene, io devo dire che ho avuto così delle segnalazioni del suo ristorante davvero straordinarie. Mi dicono che si mangia del pesce fresco, anzi vivo, mi dicono straordinario. E allora, ma come fate a avere tanto pesce a San Domino? Beh, le voglio dire, abbiamo la fortuna di avere comunque una riserva marina che in qualche modo ci tutela sulla ricrescita del pesce, per cui ci sono delle zone dove appunto comunque ci sono tutti i vari divieti sulla pesca e su tutto, e altre zone dove comunque si può pescare e riusciamo ad avere l'approvvigionamento giornaliero, insomma, di tutti questi vari prodotti che sono realmente ottimi, ecco. Tutto l'anno avete questo approvvigionamento oppure d'inverno siete chiusi? Beh, diciamo che la parte turistica è estiva, per cui durante la stagione estiva c'è movimento, poi durante il resto dell'anno è molto più tranquilla la situazione. Ecco. Stiamo viaggiando tra le splendide isole minori italiane, veramente uno spettacolo dal punto di vista paesaggistico, turistico, di mare, ma stiamo scoprendo appunto una realtà gastronomica, non solo, ma anche vinicola, come abbiamo abbiamo sentito da Andrea Gabrielli, autore del Vino e il mare, guida alla vite difficile delle piccole isole, appunto, dove lui ad una le ha così studiate, e ha parlato appunto di questi vigneti, e ha parlato, e come ha sostenuto prima, importantissima la viticoltura di queste isole perché difende il territorio, ovviamente. Ma ora siamo in un'isola dove vino non c'è, almeno io non ne so l'esistenza, ma chiediamo a Marco Napolitano, appunto, del Gabbiano. Napolitano, non c'è, non ci sono vigneti da voi, se non erro? Beh, ce n'è giusto qualcuno, ma strettamente molto privato, ecco. Dove fa un vino veramente ottimo, però sono realmente delle reliquie che si riescono ad avere. Ho capito, quindi rosso o bianco? Rosso. Vino rosso. Senta, Marco, ci parli di qualche piatto che voi preparate appunto con questo pesce, con questo pescato che avete, certo, ogni giorno. Certo, ma le voglio dire, la nostra cucina è molto varia e comunque molto semplice, nel senso che usiamo prodotti del mare, freschi, usiamo prodotti della natura, abbiamo per di più un nostro orto a fianco all'albergo, al ristorante, ecco, per cui realmente così. Piatti potremmo menzionare, che ne so, i moscardini alla luciana, che li serviamo con un purè di fave, che è un piatto molto simpatico e piacevole da assaporare, questo negli antipasti, oppure potremmo far presente, che so, le orecchiette e fusilli con gli scampi, che vengono preparate, espresse col pomodorino fresco e saltato il tutto in padella. Così, insomma, non abbinando la tipicità della pasta pugliese allo scampo e ai pomodorini. Già, perché voi siete un misto tra cucina pugliese e cucina abruzzese, insomma, siete proprio... Beh sì, noi rimaniamo su una linea di confine, per appunto, cui abbiamo, copriamo la Puglia, copriamo il Molise, copriamo l'Abruzzo, perché in effetti siamo proprio nel centro delle tre regioni, ecco. Bene, allora, grazie, io ringrazio appunto Marco Napolitano del Gabbiano di San Domino, Isola delle Tremiti, la ringrazio e niente, buon lavoro per tutta l'estate. E ora continuiamo questo viaggio nelle isole cosiddette minori, andiamo nella capitale delle Eolie, andiamo a Lipari, andiamo dal ristorante Filippino. Buongiorno Antonio Bernardi. Buongiorno a lei. Bernardi, allora, mi dica, il pesce quest'anno c'è, ce n'è molto, c'è molto pescato? Ma è molto pescato, è pescato giusto, poi noi siamo un po' autonomi, abbiamo le nostre barche, per cui non soffriamo la carenza di pesce. Ecco, ci sono in giro, ho visto in diversi posti, delle paste, delle linguine alla moda di Lipari, ma cos'è questo? Che sugo fate a Lipari che è così caratterizzante, di particolare? Allora, noi prevalentemente usiamo pesce, per cui le linguine alla moda di Lipari è una linguina fatta in casa con dentro un sughetto fatto con lo scorforo. La base del sughetto è lo scorforo, i capperi, la mentuccia e il basilico. Ed è un piatto molto caratteristico, perché era una volta un piatto che i pescatori, quando scartavano il pescato degli scorfani piccoli e vinisegoli, facevano questo sughetto per condire la pasta come piatto unico. Oggi come oggi invece è diventato una prelibatezza, per la semplice ragione che lo scorfano è molto prelibato e molto richiesto, e dallo scorfano utilizziamo tante altre cose, oltre al sughetto utilizziamo anche facciamo una zuppa particolare che chiamiamo la zuppa del nonno, che è fatta con pezzettini di scorfono, quaducci di fettuccine e il brodetto dello scorfono. Quindi alla base di tutti i nostri piatti è il pesce. Senta, volevo chiederle questo, Bernardi. Ultimamente sempre di più si dice che il mare è diventato sempre più avaro, nel senso nel dare pesce, perché c'è un'estinzione di diversi pesci. Nelle Eolie il pescato è ancora, diciamo, a buon livello, oppure si sente una carenza rispetto al passato? Dal passato la carenza c'è, è una cosa naturale, per la semplice ragione che non è stata mai fatta una politica di salvaguardia della fauna marina, ragione per cui si pescava sempre a tutto campo, in tutti i mesi dell'anno, senza avere la possibilità del ripopolamento. mentre adesso è un po' più salvaguardata, comunque il pescato è sufficiente per il fabbisogno del locale. Se ben ricordo, nel suo ristorante si mangiano anche pesci di grande profondità, come la mupa, se non erro. Esatto, ci sono ancora questi? Come no, quello è un pesce molto prelibrato, perché è un pesce che si pesca a 200-300 metri di profondità, ha una carne bianchissima, e poi è un tipo di pesce che si presta a molte cotture, tipo al sale, oppure fatto sulla griglia o all'acqua di mare. È un pesce molto prelibato e molto richiesto. Ecco, alle Lipari ora c'è anche vino, cioè negli ultimi anni diciamo che si è sviluppata anche la viticoltura. Sì, abbastanza. C'è ma l'isola madre del vino è l'isola di Salina. Certo, adesso certo. Anche Lipari incomincia ad avere della viticoltura e si fanno dei buoni vini. Bene, bianchi ovviamente, passiti e malvasia passita, immagino. E la malvasia è prevalente, no? È un vino che ormai è una famiglia internazionale. Certo. È molto richiesto. Bene, io ringrazio Antonio Bernardi, ristorante filippino delle Isole delle Lipari. Grazie Bernardi. Grazie a lei. E ora andiamo a Ponza e io devo dire subito buongiorno a Gino Pesce dell'Acqua Pazza, ristorante Acqua Pazza. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, grazie per averci interpellati. Devo dire che il pesce di Ponza veramente ha una notorietà incredibile, ora poi magari Gino Pesce mi spiegherà perché. Io recentemente sono stato a Roma in un ristorante, il San Lorenzo, e tutti dicevano il pesce arriva da Ponza, come dire, un marchio di grandissima qualità. Cosa c'ha questo pesce straordinario di Ponza, Pesce? Beh, sicuramente abbiamo una posizione dell'isola che noi ci troviamo vicino praticamente alla fossa del Tirreno, una fossa che praticamente è uno dei mari più profondi del Mediterraneo, cioè parliamo di oltre 3.000 metri. E poi l'isola zumbisce delle correnti che tutto l'anno, noi a differenza che prima sentivo il collega delle eolie, noi non abbiamo assolutamente carenza di pesce nell'isola. Lei pensi che se tutti i giorni mandiamo camion di pesce in tutta Italia a Ponza? Eh sì, infatti appunto dicevo prima che lo vedo in giro, che la gente lo sottolinea anche, quindi con grande fervore, vuol dire della qualità. Volevo chiederle questo, ecco, le specie più diffuse appunto a Ponza di pesce, quali sono? Ma ritornando a quello che dicevo prima delle correnti, noi abbiamo molto pesce di passo, quindi adesso in questo periodo proprio abbiamo pesce spada proprio ad oltranza, pesce spada, tonno, ricciola. Ponza questo c'ha di particolare, che ci sono dei periodi tipo per un mese troviamo migliaia di denti, cioè per un mese migliaia di ricciole, e però in quello periodo magari non troviamo più un'altra categoria di pesce. Ho capito, quindi diciamo è difficile fare il menù, perché sicuramente quando vi mancano certi pesci che avete in carta, certo. Ecco, i piatti più importanti suoi, quali sono? Ma guardi, adesso in questo periodo noi abbiamo un menù che varia spessissimo. Adesso abbiamo appena messo in carta un omaggio a Roma, che può essere una candela. La candela è una zitta napoletana, stiamo facendo cacio e pepe per omaggiare Roma. Poi abbiamo aggiunto pesce bianco e zucchine. Però il menù varia continuamente, parliamo di paccheri con pesce spada, mozzarella affumicata e melanzana. Noi, Ponza è stato colonizzato da tante civiltà, quindi subiamo un'influenza romana, campana, siamo stati colonizzati da fenici, greci, romani, quindi abbiamo preso un po' da tutti quanti. Ma con molta gioia, sento, certo, che non mi parla, certo, di pesce crudo, quindi sì, con molta gioia, perché ormai diciamo questa mania, questa diffusione enorme di pesce crudo in Italia, che sulla quale bisogna fare molta ma molta attenzione. Assolutamente sì. Devo dire che molti ristoratori lo utilizzano senza la prevenzione che ci vuole assolutamente sul pesce crudo, però credo, io dico sempre che il pesce crudo sicuramente è un, diciamo, è un'abilità più che del cuoco, del pescatore e del pescivendolo, più che altro è il cuoco, è un discorso di taglio, non so se lei è d'accordo, cioè di saperlo tagliare il pesce crudo. Assolutamente sì, io dico, noi in linea di massima noi non lavoriamo anche noi, cioè dire che non lavoriamo il pesce crudo sarebbe una banalità, però comunque noi facciamo molti carpacci e molte tartare, però devo dire, ritornando a quello che diceva lei prima, sicuramente bisogna fare molta attenzione, perché comunque sia il fatto che comunque una persona può prendersi l'anisaki, se voglio dire, non è verissima questa cosa. Sì, no, devo dire che non voglio fare il nome, ma si sa anche il nome di un famosissimo chef italiano che purtroppo si è preso l'anisakis, quindi vuol dire che molte volte anche va oltre l'attenzione, bisogna stare veramente molto attenti. Con questo non voglio terrorizzare nessuno, per carità, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione, perché delle volte si mangia del pesce crudo in posti dove, se si va in cucina, probabilmente sarebbe meglio non mangiarlo. Allora, ponza sicuramente grande pesce. Io ringrazio Gino Pesce, poi tra l'altro lei ha questa coincidenza di nome veramente incredibile, dell'acqua pazza. L'acqua pazza, ma pensi che mio padre aveva una pescheria? Abbiamo tramandato la pescheria al ristorante, Anche immaginare. E allora diciamo che la professionalità si è diffusa. La chiamate acqua pazza perché fate il piatto di all'acqua pazza, il pesce all'acqua pazza? No, mi piaceva. Io ho aperto l'acqua pazza il 2 giugno del 1989 e da ragazzo la mia famiglia comunque avevano sempre un altro ristorante. Una volta vidi una barca, si chiamava acqua pazza. E dici, io da grande voglio una barca così. Poi in realtà mi da fare. Bene, grazie a Gino Pesce. Grazie bene. A tutti, grazie, buon lavoro. Grazie, chiudiamo a Ponza questo viaggio tra le isole minori, questo splendido giro tra le isole minori. E ricordo appunto che abbiamo scoperto tante chicche in giro, piatti, pesce, ma soprattutto anche vino. E credo che questa sia la grande sorpresa. Ebbene, qui appunto chiudiamo questo viaggio l'abbiamo chiuso a Ponza, e diciamo appunto un'isola sicuramente molto piccola, ma quasi tutte le isole che abbiamo visitato sono piccolissime isole che vale la pena comunque di andare a visitare e vedere, perché sono anche bellissime dal punto di vista paesaggistico. Bene, io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Anita Panizza in redazione, e vi do appuntamento domani con Il riposo del guerriero. Buona giornata dal vostro gastronauta.